punto a Raul Montanari. Valerio, nelle intenzioni, è l'emblema perfetto di una generazione che, secondo me, è la più sfortunata della storia d'Italia dal 753 a.C. in poi. Nel senso che tutti noi abbiamo vissuto ricevendo idealmente un testimone dalle mani dei nostri genitori e pensando che l'avremmo portato avanti. E invece questa generazione, ma direi addirittura le ultime due generazioni, sanno che torneranno indietro, cioè sanno che rispetto ai loro genitori sono destinati ad avere meno soldi, uno status sociale meno certo, meno garanzie e quindi in tutto e per tutto ad arretrare dal punto di vista delle sicurezze e direi proprio del benessere dello stare nel mondo. Le conseguenze di questa situazione non sono soltanto economiche, ma sono molto più profonde. Anzitutto è stato detto a questi giovani che non potranno nemmeno sognarsi di fare il lavoro che gli piace nella vita, che è una cosa che per noi era l'obiettivo della vita stessa quando eravamo a nostra volta giovani ragazzi, studiavamo, ci preparavamo. In secondo luogo diventa impossibile, nel momento in cui si dipende economicamente dai propri genitori fino a 40 anni, a volte perfino oltre, compiere quell'atto fondamentale di crescita, di acquisizione di indipendenza, che è sbattere la porta in faccia ai genitori. Il rapporto con i genitori poi può sempre venire recuperato, però ci dovrebbe essere un momento anche traumatico di lacerazione, di distacco, che diventa fittizio, diventa quasi una commedia quando tu sai che tuo padre può chiudere il rubinetto dei soldi e a quel punto la tua ribellione cade nel nulla. Infatti Valerio si trova esattamente in questa situazione, così come gli amici che lo circondano, perché fa un lavoro part time presso, diciamo, l'azienda del padre, affitta casa sua con il sistema, insomma, dell'Airbnb su un sito internet per cercare di guadagnare qualcosa. E lui ha una bellissima e strana mania. Nel momento in cui affitta casa sua agli ospiti, nel momento in cui loro escono, lui entra per fare cosa? Sono contento che lei la definisca bellissima, perché a dire la verità molti l'hanno trovata eticamente discutibile. Comunque è vero che Valerio ha sviluppato questo vizio, insomma questa curiosità di rientrare in casa di nascosto quando è sicuro che l'ospite non ci sia. Questi ospiti temporanei tramite appunto Airbnb, come lei diceva prima, si affitta in casa propria in modo leggero, diciamo da un giorno fino a una settimana mediamente, e nel frattempo si va a dormire altrove. Valerio rientra perché lui trova la sua vita talmente insignificante, talmente vuota, che gli piace immaginare avventurosamente le vite di questi ospiti. Quindi non solo è attratto, come ovvio, essendo un giovane maschio, non so, dalla biancheria intima delle signore o signorine e così via, ma è attratto anche dagli oggetti degli altri maschi, forse secondo me ancora di più. E perché lui a un certo punto dice: mi piace comunque potermi identificare nella vita anche di un altro maschio, quindi provare a vivere per qualche minuto la vita di un altro. Per questo l'ho definita un'abitudine bella, perché non fa in fondo nulla di male. Non solo non fa nulla di male, come dice lei, ma secondo me in questo Valerio è una metafora del lettore. In fondo si è detto, ha ragione, che chi non legge vive una vita sola, che è la sua, mentre chi legge vive tante vite quante sono quelle dei personaggi che incontra nelle pagine dei libri. Valerio fa di casa sua non esattamente un libro, perché un libro avrebbe un solo protagonista, una sola storia. Ne fa una specie di e-reader, di lettore di ebook, che di volta in volta si riempie di volti, identità, avventure esistenziali diverse, che lui percorre in parte ricostruendole con i dati di realtà, questi oggetti che trova nella casa, l'impressione che ha avuto dalla persona, magari anche solo stringendole la mano all'arrivo, e in parte riempie con la sua fantasia. Questa sua consuetudine di affittare casa propria lo porterà a trovarsi al centro di un'avventura, insomma, senza spiegare troppo, diciamo che ci sarà una donna di cui lui si invaghisce perdutamente, Viola, e che lo porterà appunto a vivere un'avventura. Raul Montanari è definito il re del post-noir, proprio perché prende persone assolutamente comuni e le fa ritrovare al centro di un mistero, di qualcosa da scoprire. Ma non ci sono mai, diciamo, investigatori, personaggi seriali, persone che devono indagare nello specifico. Come mai? Allora, in realtà ce n'è uno che è ritornato in quattro miei diversi libri, si chiama Rick Velardi ed è una specie di investigatore privato al quadrato, nel senso che, pur essendo un personaggio umanissimo e anche piuttosto buffo, è la summa, è la sintesi di diversi investigatori che sono riconoscibili, dal tenente Colombo. Però questo non basta a fare dei miei libri dei noir ortodossi, perché Velardi non è mai il protagonista di queste vicende. È una sorta di Deus ex machina che interviene a un certo punto, non tanto per risolvere il mistero, perché Io penso che i misteri per definizione non possano essere risolti, e forse sia anche empio cercare di risolverli, ma se non altro per aiutare il protagonista, come succede proprio in questo libro, a venire ai ferri corti finalmente con certi nodi risolti di se stesso, a incontrare finalmente appunto se stesso. E questa è la funzione di questo strano Deus Ex Machina. Molto amabilmente una importante critica letteraria italiana mi ha fatto notare che l'uso del Deus Ex Machina per risolvere un meccanismo che ha comunque degli aspetti, diciamo, noir, no? L'aspetto del mistero, eccetera, le sembrava una soluzione che poteva anche parere un pochino facile. E io le ho risposto, sorridendo ma anche un po' amaramente, che siccome del Deus Sine Machina non si sono perse le tracce, non sappiamo più dove è finito, ci possiamo accontentare del Deus Ex Machina nel frattempo. Ecco, i personaggi appunto che girano intorno a Valerio, alcuni sono un po' misteriosi, tipo questa Viola di cui lui si innamora, poi c'è l'amico fraterno Simon e non diciamo di più, poi c'è una ragazza con cui intrattiene una relazione semplicemente sessuale, Elena, ma la caratteristica effettivamente di tutti questi personaggi è che sembra che loro non riescano a trovare il loro posto nel mondo. È vero, questa è una condizione che abbiamo ereditato dal Novecento. Il primo a descriverla, quello che in un certo senso ha inventato, almeno sul piano letterario, l'uomo del Novecento è stato Kafka. Kafka, i suoi labirinti, la sua realtà che si svuota di un senso, in cui, pensiamo al processo, in cui ci sono dei meccanismi che girano, funzionano, arrivando a triturare in realtà i personaggi, ma il cui fine ultimo sembra essersi perduto, per cui il tribunale del processo non si capisce dove sta, non si capisce qual è l'accusa della quale viene incolpato appunto il protagonista e così via. Io penso che siamo tutti figli di Kafka e di questa coscienza infelice del Novecento, ma lo siamo indipendentemente dal timbro che diamo alle storie che raccontiamo o che amiamo leggere. Perfino Fantozzi è figlio di Kafka, con il suo smarrimento, il suo sgomento. Ecco, secondo me lo smarrimento è una delle condizioni esistenziali di base che ci troviamo a vivere. Cioè questo cercare di dare un senso alle nostre giornate, al di là di quelli che sono quelli che possiamo chiamare protocolli esistenziali, il nostro lavoro, i nostri affetti, che naturalmente le giornate le fanno iniziare e le fanno finire, per cui non è difficile, come diceva Quasimodo, ritrovarsi a sera. La sera arriva fin troppo presto, nelle giornate come nella vita, ma in certi momenti, quando incontriamo noi stessi, momenti anche privilegiati di introspezione, di sguardo allo specchio, e ci domandiamo, ma che cosa regge tutto questo? Perché sto facendo questo? Dove sto andando? Ecco, nei miei personaggi cerco di testimoniare anche questo smarrimento. Nei romanzi di Raul Montanari c'è sempre profondamente la descrizione della città, del luogo in cui si svolgono le cose, principalmente quasi sempre Milano. Anche in questo romanzo, sempre più vicino, ci sono proprio le vie, le citazioni, svolti l'angolo, e vai via Panfilo Castaldi, Piazza della Repubblica e così via. Si sa che il noir tradizionale è molto legato al territorio, ma il posto noir, anche questo si aggancia così fortemente al territorio e alla città? Perfino più del noir, nel senso che il post-noir, come le diceva prima, racconta storie di persone comuni che vivono vicende eccezionali, no? Che a un certo punto vengono messe di fronte a scelte che sono spesso di natura etica, molto forti, che possono avere per loro conseguenze che coinvolgono addirittura la loro stessa esistenza, nel senso della pelle, di rischiare la pelle. Ora, io generalmente racconto la Milano delle periferie, e questo è il primo romanzo che è ambientato in una Milano molto centrale, quella di Porta Venezia, che è una zona, anche una zona elegante, una zona molto viva. Milano è una città molto strana, secondo me è la più strana d'Italia, perché è una città di contraddizioni davvero laceranti. Da una parte è davvero una città straordinariamente moderna ed è la città più internazionale d'Italia, nel senso che è la città in cui lavorano, rispetto ad altre, lavorano molte più persone che vengono davvero da ogni parte del mondo, lavorano nella moda, nell'economia, nella finanza, nel terziario avanzato e così via. D'altra parte Milano rimane fino in fondo una città che è impigliata fra una vocazione continentale che non funziona completamente. Milano non riesce a essere davvero ordinata, sensata come una grande capitale europea. Non è né una città svizzera né una città tedesca, sebbene tenti di esserlo. E dall'altra parte manca a Milano quella vitalità arruffata magari, però davvero potente, trascinante, delle città mediterranee. Per cui è davvero, se guardiamo anche sulla cartina d'Italia, sta su questa linea di confine ideale, non capisci se è una città della penisola o una città che appartiene a questo grande corpo dell'Europa, dell'Europa continentale. E questo dato geografico si riflette moltissimo sulle situazioni che si creano, per cui Milano è una città molto sorprendente proprio per questo, veramente da dietro l'angolo, ma lo posso dire per esperienza personale, può uscire la donna che ti cambierà la vita, come nel caso quella cosa che accade a Valerio, l'uomo che ti darà un pugno in faccia, questo è capitato a me 2 anni fa, l'uomo che invece ti dirà lei ha una faccia interessante, stiamo facendo un casting per una pubblicità importante, mi venga a trovare domani in studio, e ancora una volta ti cambierà la vita, però magari nel lavoro. È una città delle mille possibilità e narrativamente questo è molto stimolante. Un'ultima domanda da lettrice. All'inizio di ogni capitolo ci sono come delle headlines, potremmo definirle così, cioè delle parole chiave, un mini riassunto di quel capitoletto. Perché? Si tratta della rivisitazione in forma, diciamo, contemporanea di un uso che era assolutamente comune nel romanzo del Settecento e dell'Ottocento, nel senso che normalmente il numero di capitolo veniva seguito da un breve riassunto. Per esempio, capitolo 25, nel quale i nostri eroi fanno un incontro misterioso, e così via. Io lo faccio perché alcuni tratti arcaici della narrativa appunto dell'Ottocento mi piacciono molto, mi piace richiamarmi ovviamente con un gusto, quello che viene chiamato postmoderno, a questo tipo di approccio. Ma lo faccio nella forma quasi di un trailer cinematografico, nel senso che più che essere un riassunto, sono dei flash e spesso sono semplicemente parole che poi compariranno a un certo punto nel corso del capitolo e che danno una sorta di assaggio, un entrée in qualche modo, una sorta di assaporamento iniziale a quello che accadrà nel capitolo e che nelle intenzioni accrescono la curiosità del lettore. E questo era Raul Montanari, ora in libreria con Sempre più vicino, pubblicato da Baldini e Castoldi. Questa intervista era stata realizzata alla Festa del Racconto di Carpi. E a proposito di manifestazioni e festival, alcune segnalazioni. Il prossimo fine settimana, da venerdì 16 a domenica 18 giugno, a Rimini, Mare di Libri, festival dedicato a bambini e ragazzi. La particolarità di questo festival è che è proprio un comitato di giovani, di ragazzini, che suggerisce, proprio sceglie gli ospiti da invitare e i temi. E allora in questa edizione si potranno incontrare scrittori come Licia Troisi, regina del fantasy, Fabio Geda, Luigi Garlando, autore della famosissima serie Gol, Kevin Brooks e Aidan Chambers. Tutte le informazioni su maredilibri.it. Si conclude invece domani, domenica, una marina di libri, quindi quello era Mare di Libri, questo è una marina di libri a Palermo. È un festival dell'editoria indipendente che si svolge nell'Orto Botanico di Palermo. Tutto il programma, sia diciamo per i grandi che per i bambini, è consultabile su unamarinadilibri.it. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Paolo Corleoni. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Per essere sempre aggiornati potete seguirmi su Twitter e sulla pagina Facebook Il Cacciatore di Libri - Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.